non ti toglie panchino, io ti piombo di telefonate, capito? Coglione! 4-3-3-5-4, questo è il numero tuo, 24-3-3-5-4, capito? Domani ti piombo di telefonate, dalle 11 fino all'una la notte, capito? Coglione! Coglione! Che fa la voce bassa, perché credi che io non ti ricordo? Perché non parli con la voce tua, brutto bastardo, froscio, drogato che non sia altro? Drogato! Claudio mi ha fatto già la rinuncia, capito? Perché sappiamo nome e cognome tuo. Io telefono a casa tua, rompo il coglione a tua madre, capito? Telefono a casa tua e rompo il coglione a tua madre! Che sarai come Zebra che si dovrà cambiare il numero, e così te lo cambierai pure tu, froscio! Ti già crepa tua madre, non truppa. 4-3-3-6-4. E certo, te ne sveglio con la bagassona di tua madre. Se mica voglio a te, froscio. Perché tu sei un drogato, drogato! Hai capito? Domani ti piombo di interfante, inutile che poi vada a fare a mio fratello. Perché io ti romperò i coglioni fino a quando crepi, ti rompo i coglioni! Certo, all'amico tuo, 24-25-73, dico che sei tu, cazzo! Hai capito? Ti faccio trovare in mezzo ai casini, froscio! Ma amico tuo, domani sa prende con te, che bello! Che domani dovrai attaccare sempre, domani vedrai come schianta tua madre. Mi faccio schiantare tua madre, capito? Coglione. Guarda che dice che tu parecchino non ne hai. Domani schianti tu e tua madre. Basta che domani 24-3-3-6-4. Chiunque mi sente 24-3-3-6-4 è il numero di questo porco.